Io non ho pareti, non ho vetri, corsi e distanze. Io non ho pianeti, libri aperti e segrete stanze. Io non ho confini, né un futuro tra le mie mani. Io non ho problemi, lati oscuri. Castelli.